sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. All'assemblea di Confindustria il presidente Marcegaglia chiede al governo riforme, altrimenti dice la crisi non passa. Berlusconi risponde: ci stiamo provando, ma le difficoltà sono enormi. Il presidente Fiat Montezemolo sull'acquisizione di Opel, sull'eventuale chiusura di impianti si discuterà a bocce ferme. Volevano colpire una sinagoga e un aeroporto, i quattro presunti attentatori arrestati a New York nel pomeriggio discorso di Obama sul terrorismo. L'omicidio della cantante libanese Suzanne Tamim, condannato a morte l'imprenditore parlamentare egiziano che aveva pagato 2 milioni di dollari per farla uccidere. Armi e dollari falsi sequestrati ai boss di Palermo, si preparavano ad una nuova guerra di mafia. Al Festival di Cannes i film ispirati al nazifascismo. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che ci porta subito all'Auditorium della Musica di Roma. Sì, come avete sentito nella lunga diretta che questa mattina ha fatto Radio 24, questa mattina c'è stata l'assemblea di Confindustria che è ancora in corso. Al momento sta parlando il premier Silvio Berlusconi, ma l'assemblea di Confindustria è stata naturalmente aperta dalla presidente Emma Marcegaglia. Allora, Vincenzo Miglietta, in collegamento con noi dallo studio che abbiamo attrezzato appunto all'Auditorium della Musica, sta ancora parlando il Premier, no? Sì, è così. L'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi chiuderà l'assemblea annuale di Confindustria, assemblea aperta dalla Presidente Emma Marcegaglia con un intervento che non poteva non ruotare tutto intorno alla crisi economica, le soluzioni per uscirne, con un forte riferimento ad una nuova stagione di riforme per rilanciare il Paese. La crisi non è affatto finita, ha detto Emma Marcegaglia, il cammino è difficile, non bisogna abbassare la guardia. Ascoltiamo questo passaggio. Noi oggi ci troviamo nel mezzo di una crisi violentissima che sta mettendo e metterà a dura prova la nostra capacità di tenuta come imprenditori e come istituzioni. Certo, va detto, la reazione all'emergenza è stata vigorosa e si intravede anche qualche lieve segnale di miglioramento. Ma sarebbe un grave errore abbassare la guardia. Da qui un appello di Confindustria al governo, alle forze politiche, alle parti sociali perché si abbandonino le incomprensioni per remare tutti dalla stessa parte. Senza le riforme, ha detto il leader degli industriali, il paese non riuscirebbe a tornare al periodo pre-crisi prima del 2013 con un prodotto interno lordo oltretutto che quest'anno cadrà ben oltre il 4%. Riforme, ha detto ancora la Marcegaglia, necessarie per evitare che la crisi abbia effetti dirompenti sulla coesione sociale. Per questo l'appello di Confindustria al governo, sentiamo questo passaggio. Io mi rivolgo a lei, Presidente Berlusconi. Il consenso che lei ha saputo conquistarsi è un patrimonio politico straordinario. Allora, lo metta a frutto, lo usi per fare le riforme, ma lo faccia adesso, perché questo è il momento delle riforme. Lo faccia adesso, Presidente Berlusconi. Il ruolo delle imprese nella crisi, poi, è fondamentale dare impulso al settore produttivo, ha detto il leader degli industriali, impulso che passa anche per un accesso al credito più facile. Ascoltiamo la Marcegaglia. È ancora molto diffusa la difficoltà delle aziende a ottenere prestiti e si sono anche ampliati gli spread. E troppi sono i casi che ancora sentiamo di aziende a cui vengono ritirati fidi, che si fendono rifiutare le anticipazioni sulle fatture emesse e a cui vengono applicati tassi troppo alti. Allora io voglio... Il momento è difficile per tutti, però io voglio chiedere alle banche, a tutte le banche che vivono a contatto con il territorio, di non abbandonare le imprese in questi momenti difficili. Qui noi ci stiamo giocando il futuro del Paese, ci stiamo giocando il futuro del nostro sistema produttivo. Noi non possiamo perderlo, perché questo sarebbe un danno enorme per tutto il Paese. Quindi noi chiediamo uno sforzo veramente forte su questo. Rilancio del mezzogiorno, meritocrazia, efficienza della pubblica amministrazione, le altre priorità per il paese secondo Confindustria. Simone. Sì, Vincenzo, forse siete anche in grado di farci sentire che cosa sta dicendo il Presidente del Consiglio, che ha iniziato circa 35 minuti fa, se non erro, e sta ancora tenendo il suo intervento. Così potremmo incidere sugli atteggiamenti, sulle decisioni del Partito Popolare, che essendo il gruppo di maggioranza relativa all'interno del Parlamento potrà incidere sulle decisioni del Parlamento. E quindi potremo tutelare al meglio i nostri interessi, gli interessi dell'Italia e di tutti gli italiani. Ecco, perché noi vogliamo anche cercare di rinnovare la classe dirigente, mandare lì delle persone che si formino con una, due lauree, con due lingue, ma giovani, affinché possano garantire il 98% delle presenze, come anche tutti i giovani che abbiamo mandato nel Parlamento. Sta parlando italiano. Dunque ora il Presidente del Consiglio di questioni prettamente politiche, ma naturalmente ha dato soprattutto una risposta a quelle che erano le domande, le richieste di Emma Marcegaglia. L'abbiamo sentito prima, il Presidente di Confindustria ha chiesto riforme subito. Allora sentiamo come ha risposto il Premier. Emma ci ha invitato ad utilizzare la nostra maggioranza per fare le riforme. E io ieri ho avuto modo di dire che sentendomi dentro un rivoluzionario, ho sempre ritenuto che le rivoluzioni siano molto più facili che le riforme, e in effetti le difficoltà che incontriamo ad operare quotidianamente essendo al governo sono infinite, e c'è una burocrazia che si oppone a tutto. Abbiamo una difficoltà enorme a far aprire i cantieri, abbiamo stanziato 17 miliardi per le grandi opere, ma troppo pochi sono i cantieri che si sono aperti. Ma naturalmente il Presidente del Consiglio ha parlato anche della crisi. C'è un tema sul quale si è concentrato e sul quale si concentra da tempo, sia il fatto che questa crisi ha un impatto, una genesi psicologica molto forte. Ascoltiamo. Io sono profondamente convinto che la crisi ha nella componente psicologica un fattore veramente pesante, che può, se incrementata come paura, come catastrofismo, arrivare a rendere più profonda la crisi e più estesa la sua durata. E quindi credo che sia un interesse di tutti noi di cercare di allontanare questa paura. E sono profondamente addolorato quando vedo che i giornali, che le televisioni, che la nostra opposizione continuano invece a cantare la canzone del pessimismo e la canzone del catastrofismo. Quindi invito anche tutti i colleghi a cercare di diffondere, ciascuno per quel che può fare, un sentimento di fiducia, di speranza nel futuro, che, come ha ricordato anche poco fa Claudio Scajola, ci vede nella possibilità di uscire da questa crisi, direi, prima e meglio degli altri paesi. E qua sono anche note positive che noi dobbiamo avere ben presenti, perché rispetto agli altri paesi noi abbiamo messo in campo una situazione molto più positiva. E parlando sempre di economia, parlando di conti pubblici, ma anche facendo riferimento alle voci che si sono diffuse nelle settimane scorse di suoi contrasti con il ministro dell'economia Giulio Tremonti, raccogliendo l'applauso tra l'altro della platea di Confindustria, Silvio Berlusconi ha parlato così. Oltre alle grandi opere abbiamo messo in campo anche quelle che sono le opere minori, ma i comuni le possono fare. Stiamo studiando con il ministro Tremonti, a cui vanno i miei cordialissimi ringraziamenti, perché è sempre lui che deve mettere la faccia quando ci sono delle spese che non si possono fare. Sembra che sia il cattivo della compagnia, è un pezzo di pane Giulio, ma in effetti se i soldi non ci sono, se uno mette la mano in tasca per certe spese e la tira fuori vuota, non c'è niente da fare, non si possono fare certe spese. Quindi lui fa la parte del cattivo, mentre garantisco che sta seguendo tutto con grandissima passione, con un grande idealismo. Al di là delle questioni economiche, Silvio Berlusconi ha parlato inevitabilmente di giustizia, diciamo inevitabilmente riferendoci alle polemiche sulla diffusione delle motivazioni avvenuta due giorni fa della sentenza di condanna dell'avvocato inglese Mills, condanna per corruzione che appunto attesterebbe il fatto che Mills sarebbe stato corrotto dalla Fininvest e da Berlusconi. Allora sentiamo che cosa il Premier ha detto all'Assemblea di Confindustria a proposito di giustizia. Quindi c'è una realtà che è esattamente il contrario di quello che questi giudici hanno scritto in una sentenza prescritta, perché si tratta di giudici che sono estremisti di sinistra. Ora vi domando, e ritorno alla partenza, se Mourinho è affidabile come arbitro di una partita dell'Inter con il Milan. E queste cose non si possono non dire, questa è una vera patologia della nostra democrazia, e noi ci batteremo affinché non ci possano più essere questi partiti all'interno della magistratura, affinché non ci possa più essere un consiglio superiore della magistratura fatto di giudici che si assolvono. Quindi c'è tutto il mio impegno ad andare avanti nella riforma della giustizia penale. Non ci fermeremo se non quando avremo diviso l'ordine dei magistrati dall'ordine degli accusatori, e se non quando gli accusatori, per andare a parlare col magistrato giudicante, dovranno farlo esattamente come lo fa l'avvocato della difesa, telefonando, fissando un appuntamento, bussando alla porta, entrando col cappello in mano e dandogli del lei. Fino a quando non ci sarà questa situazione in Italia, nessun cittadino italiano sarà sicuro di poter avere un giusto processo se accusato di reato da parte di un pubblico magistero. E questo era Silvio Berlusconi sulla giustizia. Ha parlato anche della riforma del governo, della forma di governo del paese. Avete un governo che per la prima volta è retto da un imprenditore, da una squadra di ministri che sembrano membri di un CDA, dice Berlusconi, per la loro efficienza. Dobbiamo fare però i conti con una legislazione da ammodernare, perché il premier non ha praticamente nessun potere, e dovremo arrivare, questo quindi l'obiettivo, ad un DDL di iniziativa popolare, perché non si può chiedere ai capponi e ai tacchini di anticipare il Natale. Queste le parole del Presidente del Consiglio. Le 13:17 minuti, 10 secondi, nella prima parte del GR Extra Large. La prima parte del GR Extra Large l'abbiamo dedicata quasi esclusivamente all'assemblea di Confindustria, con l'intervento di Emma Marcegaglia, del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Adesso innanzitutto un'ultima ora in arrivo dall'Afghanistan. E sì, perché un parà italiano è rimasto lievemente ferito ad un braccio in seguito ad uno scontro a fuoco avvenuto in un villaggio a circa 120 chilometri da Herat. Siamo nella zona ovest dell'Afghanistan. La pattuglia di militari italiani ha risposto al fuoco e comunque è rientrata alla base senza ulteriori conseguenze. E noi torniamo però adesso a parlare dell'assemblea di Confindustria, per avere un po' un commento generale dopo aver fatto la cronaca delle parole di Emma Marcegaglia e di quelle del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Buongiorno Enrico Cisnetto, giornalista economico. Buongiorno, buongiorno. Allora Cisnetto, un giudizio così a caldo globalmente su quanto detto sia da Marcegaglia che da Berlusconi? Ma dunque, la Marcegaglia ha posto tutti i temi che si dovevano porre sul tappeto, ha anche fatto un passaggio che è importante sulla responsabilità degli imprenditori, cioè non soltanto ha detto a banchieri, governanti e sindacati cosa devono fare, ma soprattutto ha anche detto che cosa devono fare gli imprenditori. Solo che la mia impressione è che bisognasse fare un passaggio ulteriore. Siamo di fronte ad una crisi che non è congiunturale, la stessa Marcegaglia lo ha detto dicendo che il mondo uscirà completamente cambiato quando sarà finita questa crisi, e di fronte a un cambiamento radicale che ci aspetta, l'ipotesi che si tratti semplicemente di difendere con le unghie e con i denti l'esistente, i posti di lavoro e le aziende così come sono, per sperare poi che finita la crisi si torni a crescere, secondo me si commettono due errori. Uno, quello di dimenticarsi che prima della crisi l'Italia era comunque in crescita zero, ed è da 15 anni che cresce ad un tasso inferiore di un punto all'anno negli ultimi 15 anni rispetto alla media europea, di 2,5 punti rispetto agli Stati Uniti. Il secondo errore è appunto quello di credere che dopo sarà uguale a prima. Allora, siccome se queste sono le premesse corrette, bisogna fare un ragionamento di riorganizzazione del capitalismo italiano, anche delle sue della sua allocazione, dove sono le imprese, in quali settori potranno essere ancora di nostra pertinenza e quali dobbiamo abbandonare e quali strade nuove invece dobbiamo imboccare. Qui secondo me è mancata un po' l'analisi che non ho trovato né nelle parole della Marcegaglia né nelle parole di Berlusconi. Cisnetto, per quanto riguarda invece il tema delle riforme, il tentativo di dare una scossa ci sembra abbastanza chiara, ci sembra abbastanza chiaro. Del resto il governo non ha nascosto nell'ultimo periodo l'idea che non è il momento per fare le riforme, non è il momento di toccare le pensioni, non è il momento di toccare gli ammortizzatori sociali, perché in questa fase potrebbe creare, diciamo, dei problemi sociali ulteriori. La Marcegaglia invece su questo ha spinto moltissimo. Ma mi pare di sì, e ha fatto molto bene. La richiesta di riforme è sacrosanta, le riforme vanno fatte in questo momento per due motivi. Primo, perché la crisi rende la condizione psicologica del paese più favorevole alle riforme, e secondo perché in questo momento servono non solo perché sono necessarie in senso totale, ma anche perché possono creare quegli spazi di spesa che in questo momento le condizioni della finanza pubblica non ci consentono di avere, cioè sostanzialmente si tratta attraverso le riforme di trasformare ampi pezzi di spesa pubblica corrente in spesa per investimenti. Quindi la Marcegaglia ha fatto bene, solo che c'è un po' una contraddizione, continua a fare l'avvocato del diavolo. Questa è un'osservazione di tipo fondamentale, cioè questa richiesta delle riforme è assolutamente fondamentale, però il governo è a un anno dalla sua costituzione, ha una maggioranza e un consenso come non nessuno ha mai avuto, e beh, allora forse bisognava anche tirargli un po' di più le orecchie per non aver fatto fin qui le riforme e soprattutto per aver teorizzato che le riforme non si devono fare in momento di crisi. Non bastava cioè fare la richiesta che si facessero, bisognava anche sancire con un giudizio più netto il fatto che non si siano fatte fino qua. Ecco, una tirata di orecchie è arrivata da Marcegaglia al governo per quanto riguarda invece il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, e poi ancora toccando il tema del credito alle imprese, questa volta invece rivolgendosi alle banche, insomma le banche hanno avuto i Tremonti Bond, hanno la possibilità di utilizzare i Tremonti Bond, però ancora la stretta sul credito si fa sentire. Allora, per quanto riguarda il primo punto, la Marcegaglia ha fatto benissimo. Questo è un elemento di assoluta contraddizione, perché se invece i soldi alle banche con la speranza che li dessero alle imprese, li avessero utilizzati per pagare i debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, pagando il pregresso e mettendosi in condizione che le nuove fatture non varchino i 30 giorni, i 40 giorni come è in tutti i paesi civili del mondo, credo che ci sarebbe stata un'immissione di liquidità nel sistema industriale molto più veloce e diretta, tesa a eliminare uno scandalo come quello che la Marcegaglia ha denunciato. Quindi da questo punto di vista ha fatto benissimo a ricordare questo fatto. Per quanto riguarda invece la questione dei finanziamenti delle banche, qui bisogna intenderci, perché è vero che le banche hanno avuto un atteggiamento conservativo, è anche vero che poi gli abbiamo anche riconosciuto che attraverso questi atteggiamenti conservativi hanno evitato il peggio, quindi tutto sommato una qualche indulgenza bisogna averla. E secondariamente io penso che in questa storia dei mancati flussi di credito ci sia un concorso di responsabilità. Ci sono le banche conservative, ma ci sono anche molti imprenditori che hanno tirato il freno a mano e gli investimenti non li vogliono fare. Ce ne sono altri che invece pretenderebbero di avere dei finanziamenti, però è anche vero che questa crisi ha messo a nudo un modello di credito facile che c'è stato nel passato, e se le imprese non hanno progetti credibili o sono semidecotte, e ce ne sono tante purtroppo, è anche giusto che i banchieri smettano di dargli credito. Quindi diciamo che su questo punto è giusto la sollecitazione alle banche, ma anche un po' di autocritica non farebbe male. Beh, del resto un po' di autocritica oggettivamente la Marcegaglia l'ha fatta nel suo intervento. Grazie comunque ad Enrico Cisnetto, giornalista ed editorialista economico, per essere stato con noi. E adesso andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché a New York sono stati arrestati 4 presunti attentatori, forse avevano intenzione di colpire una sinagoga. La notizia arriva tra l'altro nel giorno dell'atteso discorso di Barack Obama sulla sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo. Volevano far saltare in aria una sinagoga nel Bronx e sparare missili terra-aria contro aerei militari della base di Stuart a Newburgh, vicino alla Grande Mela. I 4, tutti cittadini americani di fede musulmana, 3 di origine haitiana, 1 afghana, sono stati catturati dall'FBI e dalla polizia di New York dopo aver piazzato quelle che credevano fossero delle bombe in alcune auto parcheggiate davanti alla sinagoga e al vicino centro ebraico di Riverdale. Bombe in realtà innocue, procurate loro da un informatore sotto copertura che li ha incastrati. capivano poco di armi, ma rappresentavano una reale minaccia per la sicurezza, ha dichiarato il sindaco di New York, Michael Bloomberg. La notizia arriva nel giorno dell'atteso discorso di Barack Obama sulla sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo, discorso dal quale tutti si aspettano un chiarimento sul carcere di Guantanamo dopo la bocciatura da parte del Senato dei finanziamenti necessari alla chiusura promessa. Proprio in queste ore il New York Times ha reso noto un rapporto riservato del Pentagono dal quale risulta che uno su sette dei 534 prigionieri già rilasciati da Guantanamo è tornato al terrorismo. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo in Egitto, dove è stato condannato a morte oggi dalla Corte d'Assise del Cairo l'imprenditore parlamentare Hasham Talat Mustafa, mandante dell'omicidio della cantante libanese Suzanne Tamim, avvenuto a Dubai il 28 luglio del 2008. Ce ne parla Dibo Fateh Ali. Sgozzata e brutalmente sfigurata, così era stata trovata la celebre star libanese Suzanne Tamim nella camera di un lussuoso albergo di Dubai. Un omicidio che solo per il nome della vittima aveva suscitato l'estate scorsa uno spasmodico interesse del pubblico arabo. Poi è venuta fuori la verità e la confessione del sicario, un ex poliziotto che ha tirato in ballo il nome del mandante, Hashim Talat Mustafa, un deputato e ricco uomo d'affari vicino al vertice del potere egiziano. Si viene a sapere che il magnate era l'amante della donna, geloso per essere stato scaricato dalla star per un ex pugile iracheno. Prima le offre un patrimonio per tornare da lui, ma lei, bella, ricca e famosa, dice no. Allora per punirla paga la cifra di 2 milioni di dollari al killer. Troppi dettagli finiti sui giornali anche per un amico personale e principale sponsor finanziario di Jamal, il figlio del re Mubarak che vuole governare l'Egitto dopo il padre che ha deciso di scaricare l'amico. Sulle strade del Giro d'Italia adesso, Dario Ceccarelli, quali oggi? Quali strade? Andiamo sulle Cinque Terre, andiamo da Sestri Levante a Rio Maggiore, la cronometro, il giorno della verità, il giorno della corsa che dovrebbe dire se Danilo Di Luca ha tutte le chance per poter vincere il Giro d'Italia oppure ha fatto una buona prima parte e poi dopo si vedrà. È una crono molto atipica perché presenta oltre una lunghezza 60 km anche due salite e due discese pericolose, per cui bisogna essere anche molto agili, saper andare bene proprio con la bicicletta, e quindi oltre a Di Luca bisognerà temere il russo Menchov, che è l'avversario più accreditato, e poi l'americano Leigh Palmer e anche il nostro Ivan Basso, che finora non si è capito bene quanto valga, ma si pensa che possa fare una buona corsa. Ultima cosa, Lance Armstrong è in grande ripresa, potrebbe fare il colpo, ed è tutto. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. All'assemblea di Confindustria la presidente Marcegaglia chiede riforme al governo e sulla crisi è un errore abbassare la guardia. E Berlusconi dallo stesso palco risponde: proviamo a riformare ma è difficilissimo. Poi sul caso Mills: la giustizia penale è una patologia del nostro sistema, criticare i giudici è un diritto. L'offerta di Fiat per Opel parla a Montezemolo, sull'eventuale chiusura di impianti si discuterà a bocce ferme. Volevano colpire una sinagoga e un aeroporto, i quattro presunti attentatori arrestati a New York nel pomeriggio discorso di Obama sul terrorismo. L'omicidio della cantante libanese Suzanne Tamim, condannato a morte l'imprenditore parlamentare egiziano che aveva pagato 2 milioni di dollari per farla uccidere. Armi e dollari falsi sequestrati ai boss di Palermo, si preparavano ad una nuova guerra di mafia. Ed è proprio di questo che parliamo adesso, dell'operazione di sequestro avvenuta oggi a Palermo. Armi, munizioni e oltre 10 milioni di dollari falsi che sarebbero dovuti servire per far scoppiare una nuova guerra di mafia fra le cosche del palermitano, ma utilizzati anche per acquistare smeraldi provenienti dal Brasile. Li hanno trovati e sequestrati i carabinieri di Palermo in casa di presunti affiliati a Cosa Nostra. In particolare sono stati trovati, oltre alle mazzette di dollari falsi, tre fucili, una pistola, una divisa da militare dell'arma e migliaia di munizioni. Si tratta dell'arsenale del presunto capomandamento di Porta Nuova, Gaetano Lopresti, 52 anni, che si è suicidato a dicembre, il giorno dopo l'arresto, nell'ambito dell'operazione Perseo. Lopresti si opponeva all'ascesa del boss Benedetto Capizzi e sosteneva di avere l'appoggio del figlio di Totò Riina, ma era stato smentito da un altro boss. Le armi sono state trovate in casa del presunto reggente la famiglia di Borgovecchio, ora collaboratore di giustizia, Fabio Manno, mentre i dollari in casa e nel garage della zia dell'uomo, la sorella di Gerlando Alberti. Sulle armi scoperte sono stati avviati a certo avvistamenti balistici per verificare se in passato sono state utilizzate in omicidi. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Palermo. E ora un caso che sta sconvolgendo l'Irlanda: le violenze di alcuni religiosi nei confronti di bambini. Percosse, violenze sessuali, abusi fisici ed umiliazioni perpetrati da centinaia di preti e suore in modo endemico in riformatori, orfanotrofi e negli istituti, soprattutto maschili, gestiti dalla Chiesa Cattolica Irlandese, dove in 60 anni sono passati 35.000 bambini. 9 anni di indagini fino al rapporto scandalo, pubblicato dalla Child Abuse Commission, che ha raccolto la testimonianza di 2.500 vittime, minori violentati, picchiati, lasciati senza cibo. La più grande inchiesta sugli ordini religiosi in Irlanda, in 3.500 pagine shock, che hanno rivelato come la Chiesa incoraggiasse discipline crudeli e soprattutto tenesse coperte pratiche di pedofilia. Il rapporto prova le violenze sessuali e gli abusi brutali subiti dai bambini. Questo è di qualche conforto per le vittime, ha detto il loro portavoce alla BBC, mentre per parte sua il cardinale Sean Brady ha dichiarato che la Chiesa Cattolica Irlandese è profondamente addolorata e piena di vergogna per quel che i bambini hanno sofferto negli istituti chiusi negli anni 90. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. Giulia Crivelli, naturalmente di tutto questo si parla ampiamente sui giornali inglesi. Buongiorno, naturalmente. Buongiorno, sì, quello che ha, diciamo, lo spunto più singolare è il Guardian, perché questa sera su ITV, che è uno dei canali privati della televisione britannica, andrà in onda un'intervista all'arcivescovo, al leader della Chiesa Cattolica in Inghilterra e in Galles, Vincent Nichols. E nel corso di questa intervista la cosa che sta suscitando maggiori proteste che lui ha detto letteralmente: gli ecclesiastici che hanno ammesso questi abusi sono stati coraggiosi. Ecco, il fatto che sia definito un atto di coraggio la confessione di un crimine ha già scatenato un ulteriore dibattito. L'Irish Times, che è uno dei maggiori quotidiani irlandesi, altrettanto spazio con testimonianze. Questa è un problema che doveva venire alla luce perché se ne parlava da tempo, sottolinea l'Irish Times. Adesso naturalmente tutti questi casi tutti insieme avranno probabilmente degli effetti, forse come è stato per lo scandalo dei rimborsi spese, cioè assisteremo a dimissioni e altre misure drastiche, perché l'indignazione generale in Gran Bretagna è fortissima. Giulia, per quanto riguarda invece la Francia, c'è una forte opposizione alla legge antipirateria. Sì, questa legge antipirateria che sta facendo tanto discutere poteva essere nell'idea di chi l'aveva ideata un po' un modello per tutta l'Europa, cioè punire molto severamente tutti gli download illegali, quelli che non vengono pagati, o il peer-to-peer, e il cammino di questa legge in realtà è molto difficile. Adesso addirittura il ministro per lo sviluppo dell'economia digitale, questa particolare figura voluta da Nicolas Sarkozy, ha deciso che questa legge effettivamente non va così com'è. Probabilmente non verrà del tutto stralciata, bisognerà cambiarla in alcuni punti, però è sicuramente una sconfitta per chi appunto voleva dare un segnale molto forte ai pirati di internet. Giulia, per quanto riguarda, ritorniamo qua in Inghilterra, qualcosa di un pochino più leggero, se vogliamo, insomma, questa mania di attrezzare i propri animali con chissà quali strumenti. Articolo divertentissimo dell'International Herald Tribune nella pagina di Personal Technology, ma sarebbe meglio chiamarla Pet Technology. Sono tutte quegli aiuti che la tecnologia può dare nel dare dei gadget ai cani, soprattutto ai cani e ai gatti, quindi dalle lettiere telecomandate ai collari con il navigatore satellitare, perché così il padrone può sapere esattamente dove è il suo cane, o magari un giorno pensiamo addirittura che sia il cane da solo a guardare il suo navigatore satellitare, ai cancelli per i cani, che anche quelli telecomandati a distanza, le cassettine per il trasporto, a ricollare aria condizionato, magari un po' di riscaldamento per l'inverno. Insomma, non è proprio vita da cani, mi verrebbe da dire, è una battuta molto facile. Tanto, infatti nel titolo dice: persino in una recessione i padroni di cani e gatti hanno di che spendere per i loro animaletti. Ah beh, se si vuole si trova sempre l'occasione per spendere. Grazie Giulia Crivelli, grazie, ci risentiremo con te domani. Il pianeta è anche questo. Grazie Giulia Crivelli. Andiamo al Festival di Cannes, Alessandra? Sì, perché Quentin Tarantino riscrive la storia con un attentato attentato al gruppo dirigente del Terzo Reich mette in scena le vicende di uno strano gruppo di vendicatori del nazismo. Ma anche Michael Haneke ambienta il suo film nella Germania agli albori del regime. Ci lanceremo sulla Francia vestiti da civili per fare una cosa e una sola: uccidere i nazisti. Ai tempi del nazismo, un gruppo di soldati statunitensi con un solo spirito, azioni di guerriglia piene di sangue in territorio nemico. Una sorta di arancia meccanica collettiva che non piace a Hitler, che si vede scavalcato in violenza da americani e addirittura ebrei. Ogni uomo sotto il mio comando deve portarmi 100 scalpi di nazisti! E io voglio i miei scalpi. È la trama di Inglourious Basterds, l'ultimo film di Quentin Tarantino con Brad Pitt, presentato in concorso al Festival di Cannes. Is it a fairy tale? Is it a Jewish wish fulfillment fantasy or just a wish? È una favola, una fantasia di vendetta ebraica, una fantasia di vendetta e basta. È tutto questo, ha raccontato Quentin Tarantino. Se una persona può cambiare i destini del mondo e far terminare la guerra, ha detto, vuol dire che ogni cosa è possibile, almeno al cinema. È possibile anche mettere a ferro e fuoco una sala cinematografica con all'interno i peggiori gerarchi del regime e dare una fine diversa alla storia del Novecento. Giorni in bianco e nero, come la pellicola utilizzata da Michael Haneke in The White Ribbon. Siamo sempre negli anni del nazismo, con la deriva tragica e violenta di un villaggio tedesco nel 1913. Sconvolgente. Tutt'altro tono e atmosfera dal film di Tarantino, che sa prendere anche le cose serissime con entusiasmo e apparente leggerezza. Felice, felicissimo di essere a Cannes. To me there's just no place like Cannes for filmmakers. I am not an American filmmaker. I make movies for the planet Earth, and Cannes is the place that represents that. Per un regista non c'è luogo al mondo come Cannes, dice. Io non sono un regista americano, io faccio film per tutto il pianeta Terra e Cannes è il posto che rappresenta tutto questo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:45 minuti, 44 secondi, adesso parliamo di Fiat. Del tentativo di acquisire, del piano Fiat per acquisire Opel, lo sappiamo, sono tre le proposte arrivate al governo tedesco, oltre naturalmente a quella di Fiat, c'è quella della Magna e quella di un fondo americano. Il governo tedesco potrebbe dare il suo via libera fra una settimana. Per quanto riguarda il fronte italiano, il presidente di Fiat Luca Cordero di Montezemolo, margine dell'assemblea annuale di Confindustria, ha detto che per conoscere l'esito della proposta del lingotto per l'acquisto di Opel non ci saranno tempi lunghi. Riguardo invece all'ipotesi di chiusura di alcuni stabilimenti in Italia, Montezemolo ha precisato: bisogna vedere che cosa succede, ora non se ne può parlare, dobbiamo discuterne, come si dice in gergo, queste le parole di Montezemolo, a bocce ferme. Ma di Fiat si parlerà anche in Consiglio dei Ministri. In diretta da Palazzo Chigi c'è la nostra Paola Cavadi. Paola. Buongiorno. Il Consiglio dei Ministri non è ancora iniziato per via del protrarsi dell'Assemblea di Confindustria. Ufficialmente il dossier Fiat non figura tra i punti all'ordine del giorno di oggi, ma con ogni probabilità se ne parlerà a margine. Il ministro Scajola dovrebbe tenere una relazione sulla questione e comunque dal palco dell'Assemblea di Confindustria lo stesso Scajola ha detto che il governo convocherà azienda e sindacati nei prossimi giorni. Dunque l'incontro chiesto a gran voce dai sindacati ci sarà e, come ha assicurato ieri il ministro Sacconi, non si terrà a giochi fatti. I sindacati italiani sono preoccupati per un piano industriale che non conoscono ancora e che potrebbe avere, dicono, ripercussioni negative sugli stabilimenti italiani. Le voci circolate nei giorni scorsi sulla chiusura di due impianti sono state in qualche modo smentite o ridimensionate ieri proprio dal ministro Scajola, che tra l'altro aveva definito imprescindibile per il governo il mantenimento di tutti gli impianti italiani. Insomma, seguiremo gli sviluppi della vicenda, intanto il governo fa il suo ingresso nella partita che si annuncia completa. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi. Grazie Paola Cavadi. Intanto, come avevamo anticipato oggi nel nostro GR delle 7, l'Associazione Cittadinanza Attiva ha diffuso oggi un rapporto sull'inefficienza dei servizi di pubblica utilità. Chiara Di Michele, tu hai seguito la presentazione del rapporto. Allora, quali sono le lamentele più frequenti da parte dei cittadini? Sì, buongiorno. I cittadini si lamentano in primis del settore telecomunicazioni, lo considerano il peggiore tra i servizi di pubblica utilità, maglia nera anche per la pubblica amministrazione che insieme ai servizi pubblici locali è il settore che riscontra maggiori criticità di tipo burocratico. Sentiamo il commento del segretario generale di Cittadinanza Attiva, Teresa Petrangolini. c'è stato un aumento delle segnalazioni dei cittadini sul funzionamento della pubblica amministrazione del 19%, e la pubblica amministrazione è al secondo posto nel lamentare dei cittadini dopo le telecomunicazioni, cioè la telefonia. Fronte a una multa che gli viene addossata e che lui non deve subire, a un rimborso IRPEF che gli arriva dopo 6 anni, a permessi per i quali deve aspettare mesi e mesi, addirittura a situazioni in cui non riesce nemmeno a fare il cambio di residenza, si sente veramente abbandonato, cioè sente la pubblica amministrazione come un nemico. Per un permesso di soggiorno c'è chi ha aspettato 5 anni anziché 90 giorni. A Firenze un cambio di residenza è stato ottenuto dopo 223 giorni contro i 180 previsti. I cittadini segnalano anche difficoltà su tempi d'attesa e informazioni relative ai bonus sociali introdotti dal governo. Indipendentemente dai singoli ambiti, comunque in tutta la pubblica amministrazione gli italiani lamentano una carenza di informazione. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Chiara Di Michele, noi ora parliamo di musica. Sì, musica e storia, ecco, perché potremo presto leggere su internet le lettere scritte da Mozart, comprese quelle che parlavano dell'Italia. L'epistolario di Wolfgang Amadeus Mozart in rete, oltre 1400 lettere. È questo l'obiettivo del progetto Mozart e l'Italia, per il quale il Comune di Milano, insieme alla città di Augusta e al King's College di Londra, ha vinto il bando Cultura 2009 dell'Unione Europea. E da Milano, nel 1773, il giovane Mozart, che tanto amava la lingua italiana, scrisse: «La musica mi piace, se piace al pubblico non so». Salvatore Carruba, presidente della giunta del Comitato Nazionale Le Vie Italiane di Mozart. Mozart fu un grande visitatore dell'Italia, in particolare di Milano. Fu ben 3 volte a Milano, lavorò per la Scala, scrisse delle opere importanti, dei quartetti, e quindi il legame con il nostro paese e con la città di Milano è particolare. A partire dal 1 di giugno sul web verranno messe subito 114 lettere, proprio quelle che il grande compositore austriaco scrisse durante i suoi 3 viaggi in Italia, avvenuti tra il dicembre del 1769 e il marzo del 1773. Un gran tour che lo portò in giro lungo la penisola, mettendolo a contatto con molti artisti. In verità non ho mai avuto tanti onori e non sono mai stato così tanto stimato come in Italia, confidò Mozart al padre. Le prime 114 lettere del musicista verranno messe online sul sito www.mozartways.com in lingua originale, il tedesco, tradotte però anche in italiano, francese e inglese. Patrizia Rebulla, curatrice del progetto. L'idea è aggiungere all'epistolario di Mozart anche altri grandi importanti epistolari utilizzando lo stesso database, in modo che si possano incrociare delle ricerche sui grandi personaggi che hanno attraversato l'Europa nel Settecento. A fare da preludio al progetto anche una mostra allestita da oggi e fino al 21 giugno al Museo Teatrale della Scala. Un'anteprima di quanto verrà messo su internet, ma soprattutto l'esposizione in prima mondiale di un ritratto ad olio di Mozart di cui fino ad ora si ignorava l'esistenza. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, un rapido riepilogo delle principali notizie di giornata. All'assemblea di Confindustria la presidente Marcegaglia chiede riforme al governo. Sulla crisi è un errore abbassare la guardia. E Berlusconi dallo stesso palco risponde: proviamo a riformare ma è difficilissimo. Poi sul caso Mills, la giustizia penale, dice il premier, è una patologia del nostro sistema. Criticare i giudici è un diritto. E tutti gli audio dell'assemblea di Confindustria li trovate sul nostro sito internet www.radio24.it. L'offerta di Fiat per Opel, parla Montezemolo sull'eventuale chiusura di impianti, si discuterà a bocce ferme. Volevano colpire una sinagoga in un aeroporto, i 4 presunti attentatori arrestati a New York nel pomeriggio discorso di Obama sul terrorismo. L'omicidio della cantante libanese Suzanne Tamim, condannato a morte l'imprenditore parlamentare egiziano che aveva pagato 2 milioni di dollari per farla uccidere. E armi e dollari falsi sono stati sequestrati ai boss di Palermo, si preparavano ad una nuova guerra di mafia. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Maria Piera Cecin, regia Filippo Aurelio. Il prossimo giornale radio è alle 15, GR Extra Large torna naturalmente domani alle 13, se volete riascoltarci www.radio24.it e se volete scriverci extralarge@radio24.it, è tutto. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.